ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Decima puntata. Nello studio davanti alla scrivania se ne stava il presidente del comitato Schwonder con il giubbotto di pelle. Il dottor Bormental sedeva in poltrona. Sulle guance arrossate dal freddo del dottore, era appena rientrato, c'era la stessa espressione sconcertata che campeggiava sulla faccia di Filip Filippovic. «Che cosa si dovrebbe scrivere?» domandò impaziente. «Ma come?» esordì Schwonder. «Non è una questione complessa. Scriva un attestato, cittadino professore, che così e cosà il latore della presente è effettivamente il cittadino Sharikov Poligraf Poligrafovic, nato nel suo appartamento». Bormental si agitò perplesso sulla poltrona. Filip Filippovic si tormentò un baffetto. «Ah, e che diavolo! Impossibile immaginarsi qualcosa di più sciocco. Non è affatto nato, ma semplicemente, beh, in poche parole, è affar suo», proferì Schwonder con tranquilla gioia maligna. «Se sia nato o meno. In generale è stato lei, professore, a fare l'esperimento. È stato lei a creare il cittadino Sharikov». «E molto semplicemente», abbaiò Sharikov dalla libreria. Si stava esaminando la cravatta riflessa nell'abisso specchiante. «Le chiedo vivamente», ringhiò Filip Filippovic, «di non immischiarsi nella conversazione. Non ha motivo di dire «e molto semplicemente». Qui le cose sono tutt'altro che semplici». «E come faccio a non immischiarmi?» prese a brontolare Sharikov offeso, e subito Schwonder gli diede manforte. «Scusi tanto, professore, il cittadino Sharikov ha perfettamente ragione. È un suo diritto prendere parte a una discussione che riguarda la sua propria sorte, in particolare in quanto la questione riguarda dei documenti. Il documento è la cosa più importante del mondo». In quel momento un assordante scampanellio proprio sopra l'orecchio del professore interruppe la conversazione. Filip Filippovic disse nella cornetta: «Sì», arrossì e si mise a gridare: «La prego di non venirmi a disturbare per delle sciocchezze, che gliene importa?» E con un colpo secco riagganciò la cornetta. Una gioia celestiale si diffuse sulla faccia di Schwonder. Filip Filippovic, diventando paonazzo, gridò: «Per farla breve, mettiamo fine a questa storia!» Strappò un foglietto dal taccuino e vi scarabocchiò alcune parole, quindi le lesse ad alta voce stizzito. «Con la presente certifico, lo sa il diavolo cosa, il latore della presente è un uomo ottenuto da un esperimento di laboratorio tramite un'operazione al cervello e necessita di documenti, diavolo. E in generale sono contrario al rilascio di questi stupidi documenti. Firma, professor Probaczynski». «È piuttosto strano, professore», si risentì Schwonder, «che lei definisca stupidi i documenti. Non posso tollerare il soggiorno in questa casa di un inquilino privo di documenti e per di più nemmeno inserito nelle liste di leva dalla polizia. E se all'improvviso ci fosse una guerra contro i predatori imperialisti?» «Io non andrò a fare la guerra da nessuna parte», latrò all'improvviso Sharikov cupo rivolto alla libreria. Schwonder si stupì, ma si riprese rapidamente e osservò con garbo la volta di Sharikov. «Lei, cittadino Sharikov, sta parlando con la massima incoscienza. È assolutamente necessario immatricolarsi nelle liste di leva». «Per immatricolarmi mi immatricolo, ma a combattere col cavolo», rispose Sharikov con fare ostile sistemandosi il nodo della cravatta. Toccava ora a Schwonder sentirsi confuso. Il professore scambiò con Bormental uno sguardo tra il maligno e lo sconsolato. «Mica male come morale», Bormental annuì con fare significativo. «Sono stato ferito gravemente durante l'operazione», ululò accigliato Sharikov. «Guarda un po' che mi hanno fatto!» e indicò la testa. Attraverso la fronte s'allungava la cicatrice di un'operazione assai recente. «Lei è un anarchico individualista?» chiese Schwonder inarcando le sopracciglia. «A me spetterebbe l'esenzione dal servizio di leva», gli rispose Sharikov. «Vabbè, d'accordo, adesso non ha importanza», rispose lo stupefatto Schwonder. «Il fatto è che noi adesso invieremo la certificazione del professore alla polizia e loro le daranno un documento». «Senta un po'», lo interruppe all'improvviso Filippo Filippovic, palesemente tormentato da un qualche pensiero. «Nella casa non c'è per caso una camera libera? Sarei disposto a comprarla». Negli occhi castani di Schwonder s'accesero scintille giallastre. «No, professore, con estremo rammarico, e nemmeno si prevede che ce ne siano». Filippo Filippovic serrò le labbra e non disse nulla. Il telefono si mise nuovamente a squillare come un ossesso. Filippo Filippovic, senza chiedere chi fosse, in silenzio gettò giù la cornetta della forcella in modo che questa, dopo aver girato un poco su se stessa, rimase a penzolare dal filo azzurro. Tutti trasalirono. «Il vecchio ha i nervi a fior di pelle», pensò Bormental. E Schwonder, facendo scintillare gli occhi, fece un inchino e uscì. Sharikov, con scricchiolio di tacchi, lo seguì. Il professore rimase a tu per tu con Bormental. Dopo un breve silenzio, Filippo Filippovic scosse appena la testa e disse: «Si tratta di un incubo, parola d'onore. Vede come stanno le cose. Le giuro, caro dottore, in queste ultime 2 settimane ho sofferto più che negli ultimi 14 anni. Un bel tipo, glielo posso proprio dire». In lontananza ci fu un sordo rumore di vetri infranti, quindi si levò un soffocato grido di donna che subito si spense. Una forza demoniaca diede un colpo sulla tappezzeria del corridoio, dirigendosi verso l'ambulatorio, dove fece cadere qualcosa con un tonfo per poi volarsene indietro immediatamente. Sbatterono delle porte e in cucina risuonò il grido basso di Daria Petrovna. Quindi Sharikov si mise ad abbaiare. «Dio mio, che altro c'è?» gridò Filippo Filippovic lanciandosi verso la porta. «Un gatto», intuì Bormental, e con un balzo lo seguì. Sfrecciarono lungo il corridoio fino all'anticamera, vi fecero irruzione. Di lì imboccarono il corridoio verso il bagno e il gabinetto. Zina balzò fuori dalla cucina e andò a sbattere contro Filippo Filippovic. «Quante volte ho ordinato di non lasciare entrare i gatti?» si mise a gridare Filippo Filippovic in preda alla furia. «Dov'è Ivan Arnoldovic? Per l'amor di Dio, vada a tranquillizzare i pazienti in sala d'aspetto!» nel bagno, diavolo maledetto! È lì dentro!» gridò Zina ansimando. Filippo Filippovic si precipitò verso la porta del bagno, ma quella non si volle aprire. «Apra in questo stesso istante!» In risposta, nel bagno chiuso a chiave, qualcosa si mise a saltare sulle pareti. Rovinarono a terra dei catini. La voce selvaggia di Sharikov ruggì sorda di là dalla porta. «Ti ammazzo!» L'acqua si mise a gorgogliare nei tubi e cominciò a scorrere. Filippo Filippovic si appoggiò alla porta e prese a strattonarla. Daria Petrovna, fradicia di sudore e con la faccia stravolta, apparve sulla soglia della cucina. Quindi un vetro alto, che arrivava fino al soffitto e che dal bagno dava sulla cucina, si fessurò con una crepa vermiforme e ne volarono via 2 frammenti seguiti da un gatto di dimensioni enormi, tigrato, con un fiocco azzurro al collo che assomigliava a un vigile urbano. Andò a cadere dritto sul tavolo su di un piatto allungato, spaccandolo in due. Dal piatto finì sul pavimento, quindi volteggiò su 3 zampe e con quella destra fece un movimento come se stesse danzando e subito si infilò nella stretta fessura che dava sulla scala di servizio. La fessura si allargò e al gatto subentrò una faccia di vecchia con un fazzoletto in testa. La gonna della vecchia, coperta da fitti puntini bianchi, apparve nella cucina. La vecchia, con il pollice e con l'indice, si asciugò la bocca infossata. Con occhietti enfiati e pungenti, esaminò la cucina e proferì incuriosita: «Oh, Signore Gesù Cristo!» Il pallido Filippo Filippovic attraversò la cucina e chiese alla vecchia minaccioso: «Che cosa vuole?» Avrei voglia di dare un'occhiatina al cagnolino parlante, rispose la vecchia insinuante e si fece il segno della croce. Filippa Filippovich divenne ancora più pallido, s'accostò alla vecchia e sussurrò con voce soffocata: sparisca in questo stesso istante dalla mia cucina. La vecchia indietreggiò contro la porta e proferì offesa. Certo che lei è un gran villano, signor professore. Fuori, ho detto, ripeté Filippa Filippovich, e gli occhi gli si fecero tondi come quelli di una civetta. Di sua mano richiuse con un colpo la porta di servizio alle spalle della vecchia. Daria Petrovna, l'avevo ben pregata. Filipp Filippovich, rispose Daria Petrovna in preda alla disperazione, serrando a pugno le mani nude. Che ci posso fare? Sono giorni che la gente cerca di entrare. Non dovrei fare altro tutto il tempo. In bagno l'acqua rugliava sorda e minacciosa, ma non si sentivano più le voci. Entrò il dottor Bormental. Ivan Arnoldovich, la prego con insistenza. Quanti pazienti ci sono di là? 11, rispose Bormental. Mandi via tutti. Oggi non ricevo. Filippa Filippovich picchiettò con la nocca di un dito la porta e gridò: faccia il piacere di uscire immediatamente. Perché si è chiuso dentro a chiave? Rispose lamentosa e fioca la voce di Sharikov. Che diavolo! Non sento! Chiuda l'acqua! Ma chiuda l'acqua! Che ha fatto? Non capisco! Strepitò Filippa Filippovich, ormai prossimo a un attacco di furia. Zina e Daria Petrovna, le bocche spalancate, guardavano la porta in preda alla disperazione. Al rumore dell'acqua s'aggiunse uno sciabordio sospetto. Filippa Filippovich tornò nuovamente a tempestare di pugni la porta. Eccolo! Si levò dalla cucina il grido di Daria Petrovna. Filippa Filippovich vi si precipitò. Nella finestrella rotta sotto al soffitto era apparsa e si stava sporgendo fuori verso la cucina la faccia di Poligraf Poligrafovich. Era contorta, gli occhi piagnucolosi, e lungo il naso si allungava il segno di un graffio fiammeggiante di sangue fresco. «È completamente impazzito!» domandò Filippa Filippovich. «Perché non viene fuori?» Sharikov, anch'egli in preda ad angoscia e terrore, si guardò indietro e rispose: la porta si è chiusa. Apra la serratura! Cos'è? Non ha mai visto una serratura! Ma non si apre la maledetta, rispose Poligraf spaventato. Santi del cielo, ha fatto scattare la sicura, gridò Zina e allargò le braccia. Dovrebbe esserci un bottoncino, si mise a strepitare Filippa Filippovich, tentando di superare il rumore dell'acqua. Lo spinga verso il basso, lo prema, verso il basso. Sharikov scomparve. Un attimo dopo riapparve nella finestrella. Non si vede un accidente, abbaiò nella finestrella terrorizzato. Ma accenda la lampada, è diventato idrofobo. Quel gattaccio maledetto ha spaccato la lampada, rispose Sharikov. E mentre lo stavo per pigliare per le zampe, quello canaglia ha svitato il rubinetto e adesso non riesco a trovarlo. Tutti e tre alzarono le braccia al cielo e si rigidirono in questa posizione. Cinque minuti più tardi, Bormental, Zina e Daria Petrovna sedevano l'uno accanto all'altro sul tappeto fradicio arrotolato alla base della porta e con i sederi lo premevano contro la fessura sotto la porta, mentre l'usciere Fyodor, con in mano una candela accesa, si arrampicava su una scala di legno per raggiungere la finestra a occhio di bue. Il suo posteriore a grossi quadretti grigi balenò nell'aria e scomparve nell'orifizio. Sharikov gridava qualcosa attraverso il fragore dell'acqua. Dalla finestrella, spinti dalla pressione, ci furono alcuni spruzzi contro il soffitto della cucina. E poi l'acqua si quietò. Si udì la voce di Fyodor. Filipp Filippovich, tanto bisognerà aprire. Lasciamo che scorra, la asciugheremo dalla cucina. Apra! Gridò Filipp Filippovich rabbioso. I tre s'alzarono dal tappeto, spinsero la porta del bagno e subito un'onda scrosciò nel piccolo corridoio. Lì si divise in tre torrenti, uno dritto in direzione del gabinetto di fronte, l'altro a destra verso la cucina e il terzo a sinistra verso l'anticamera. Sguazzando e saltellando, Zina chiuse la porta che dava nell'anticamera. Fiodor uscì dal bagno con l'acqua fino alla caviglia, sorridendo per un qualche motivo. Sembrava avvolto da un'incerata ed era fradicio. «È stato difficile otturarlo, la pressione era forte», spiegò. «Dove?» domandò Filip Filippovic e con una bestemmia alzò una gamba. «Ha paura di uscire», disse Fiodor ridacchiando scioccamente. «Mi picchierà, paparino?» dal bagno giunse la voce piagnucolosa di Sharikov. «Imbecille!» ribatté brevemente Filip Filippovic. Corrado Guzzanti ha letto Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.